Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, contrariamente alla mia abitudine vi segnalo oggi un bestseller o un probabile bestseller, infatti è l'ultima fatica di Dan Brown, l'autore del Codice da Vinci, che torna con un libro che sfoggia in copertina Dante Alighieri. Il libro si intitola Inferno, è pubblicato da Mondadori, 522 pagine, 25 euro, ed è tradotto da Nicoletta Lamberti, Anna Maria Raffo e Roberta Scarabelli. Quindi insomma Dante al centro delle inchieste del libro di Dan Brown, questa volta il noir ruota intorno alla simbologia di cui è esperto un professore di Harvard, Robert Langdon, che si rifà proprio alla prima cantica della Divina Commedia, nel testo della quale ritroverà molti indizi per salvarsi da un'organizzazione segreta e alla fine riconoscerà il protagonista del libro nella commedia l'esaltazione della forza dello spirito umano nell'affrontare qualsiasi sfida, anche la più terribile. E allora, una guida all'inferno si intitola esattamente così il libro di Marco Sant'Agata, che è scrittore, italianista, dantista, pubblicato sempre da Mondadori, 172 pagine, 17 euro. Questa è un'agile ma documentata e attendibilissima introduzione alla prima cantica della Divina Commedia, di ciascun canto della quale troviamo una sintesi critica con delle notazioni e osservazioni dell'autore che ci fanno meglio penetrare i segreti del capolavoro di Dante Alighieri, sul quale adesso sentiamo il parere di Marco Sant'Agata. Buongiorno a Marco Sant'Agata. Buongiorno. Marco Sant'Agata, fra i commenti che lei dedica all'inferno, ce ne sono vari che sottolineano la posizione di Dante contro i nuovi ottimati di Firenze, contro la società mercantile. Insomma, Dante, secondo lei, era un reazionario? Ma possiamo anche usarla questa parola. Se vogliamo essere un minimo più rispettosi, diciamo era un conservatore, ma in realtà è più corretto dire che era un reazionario, nel senso che lui voleva tornare indietro, cioè aveva in mente una società del passato che probabilmente, come la pensava lui, non era mai esistita, ma aveva in mente un modello arcaico di società ordinato, gerarchizzato, immobile. È una società completamente diversa da quella dinamica e tumultuosa in cui viveva. E infatti era contro anche l'inurbamento della città. Era contro a quello che noi oggi potremmo chiamare progresso, cioè era essenzialmente contro alle pratiche mercantili e finanziarie che erano il vero motore dello sviluppo economico dei comuni e quindi di Firenze, con tutto ciò che questo comportava, con sviluppo urbano, con immigrazione, con rimescolamento delle persone, la città mista la chiamava Dante, per cui un non nobile poteva comportarsi da nobile, un nobile decadeva nella scala sociale, cose che Dante non ammetteva. In compenso aveva molta sicurezza di sé, lei scrive di un gesto di inaudita audacia, quello di Dante, di collocarsi a fianco dei grandi poeti della classicità. Sì, lui si arroga il titolo di poeta, a noi non fa un grande effetto sentire Dante che pensa di essere un poeta, ma allora era un gesto davvero audace, perché i poeti erano solo i poeti latini della classicità latina, quelli che scrivevano in volgare erano dei rimatori, mai avrebbero pensato di essere equiparabili a Virgilio, a Orazio, a Ovidio, a Lucano, ai grandi della classicità, e Dante invece questo passo lo fa. Un altro aspetto che emerge dai suoi commenti è che Dante, almeno con quest'opera, era un opportunista politico, cercava di rimettersi nel gioco della politica. Diciamo che Dante era un politico, forse non un grande politico e sicuramente non un politico di primo piano, però era dentro al gioco politico, non era al di fuori. È un po' un'immagine sbagliata quella che ci è stata tramandata, soprattutto a scuola, del Dante al di sopra delle parti. No, Dante era uomo di parte che agiva in maniera conseguente e che ha patito anche le conseguenze di essere uomo di parte. Quindi non opportunista, diciamo che era opportunista come era necessario esserlo allora e sempre se sei all'interno di un gioco politico. Ecco, nell'incontro con Guido Cavalcanti poi emerge una concezione dell'amore molto particolare. Questo aspetto è forse innovativo, questo contrasto fra due visioni dell'amore. Sì, diciamo che sono tutte e due nuove, perché Cavalcanti ha questa visione, diciamo, pessimistico, disperata, con un fondo, vogliamo dire, materialista, l'amore come malattia, ma nel senso patologico del termine. A questo Dante contrappone invece un'idea a prima vista più tradizionale dell'amore sublimante, l'amore che ti eleva, che ti raffina, avrebbero detto, usando un termine provenzale, cioè che ti nobilita. Quindi le due concezioni sono fra loro effettivamente inconciliabili, ma sono nuove entrambe, perché poi in realtà Dante sembra riprendere una concezione tradizionale, ma da lì ne fa discendere delle conseguenze nuove, per esempio il fatto che soltanto i nobili d'animo, che vuol dire le persone colte, le persone coltivate, sono in grado di sentire e di vivere un amore di quel tipo. Lei ricorda come nell'Inferno Dante due volte definisca la sua opera la commedia. Perché adottò questo termine? Qui ci vorrebbe molto tempo a disposizione per rispondere a questa sua domanda e non so se sarei in grado di rispondere, perché la discussione su questo tema è aperta. La mia idea, che non è solo mia, io mi baso anche su studi di altri, come soprattutto di Mirko Tavoni, è che quando lui parla di commedia non pensa allo stile comico come lo intendiamo noi, e tanto lo stile incarnato dalla commedia in senso teatrale. Pensa a un'altra cosa, pensa alla satira antica, che veniva definita per l'appunto commedia, cioè un testo fatto per fustigare i costumi, per fare della satira sociale. Pensa appunto a questa tradizione moralistica, civile, che poteva legittimamente essere chiamata commedia, e la sua commedia ha questi aspetti. Senta, parliamo di lei. La fascetta del libro dice: quello che dovete sapere per entrare nel mondo del nuovo thriller di Dan Brown. Che impressione le fa questo accoppiamento tra un grande studioso come Marco Sant'Agata e un produttore di bestseller come Dan Brown nel nome di Dante? Sono in tanti che mi fanno questa domanda, ma non è che le faccia a me non fa un'impressione particolare, prendo atto che è una strategia di mercato. Non so se effettivamente attraverso la mia rilettura dell'Inferno si possa entrare nel mondo di Dan Brown, anche perché non è che ci siano segreti particolari nel mondo di Dan Brown, cioè il Dante di Dan Brown non è poi un Dante così enigmatico e criptico come si dice, insomma, senza avere letto il libro. Ma io penso che se Dan Brown e anche Marco Sant'Agata possono servire a fare conoscere non Dante, che è conosciutissimo, ma la commedia, di cui conosciamo molto di più il titolo che il testo, tutto sommato può essere una buona operazione. E naturalmente auguriamo a Marco Sant'Agata di vendere come Dan Brown. Beh, no, non esageriamo. Grazie a Marco Sant'Agata, autore di Guida all'Inferno, e buona domenica. Grazie. E un approccio particolare a Dante troviamo nel libretto di uno dei più noti filosofi contemporanei, Carlo Sini, che pubblica Dante, il suono dell'invisibile, con et al, 88 pagine, 8,50 euro. Sini, come dicevo, non è un letterato, ma un appassionato di Dante, e è protagonista di un'iniziativa degli studenti dell'Università Statale di Milano, gli esperimenti danteschi, che affidarono nel giro di 3 anni la lettura di 2 canti a uno studioso che era libero di commentare questi canti. mercanti come egli preferiva, e qui troviamo i testi di Sini coinvolto in questa avventura. Esattamente sono due canti, il decimo e l'undicesimo dell'Inferno, in cui incontriamo Guido Cavalcante, il terzo e il quarto del Purgatorio con Manfredi, quello famoso biondo era e bello di gentile aspetto, e poi il Paradiso, il tredicesimo e il quattordicesimo canto. Sini sottolinea una coerenza nei suoi quattro scritti, che è merito soprattutto di Dante, che scrive e ti mostra la profonda unità del suo poema, che è come un turbine di luce e di suoni, un precipizio di volute e di cornici nelle quali risuona un canto sublime, coerente, polifonicamente armonizzato, un tutto segnato dalla verità e dalla grazia, dall'invenzione sempre nuova e da un superiore destino che ha inflessibilmente ispirato il poeta. E il Dante di Sini apre una nuova collana di Et al, che si intitola Sillabario, in cui uno studioso illustra un aspetto di un grande pensatore che non appartiene alla propria disciplina. Infatti troviamo due filosofi, Rocco Ronchi, che introduce Brecht, la filosofia di Brecht, e Federico Leoni, che introduce Descartes, una teologia della tecnologia. Un insolito aggiornamento dell'Inferno, infine, quello di Tommaso Cerno, giornalista, che ha raccontato in versi, secondo il modello dantesco, la politica italiana. Il libro si intitola Inferno, la commedia del potere, pubblicato da Rizzoli, 284 pagine, 18 euro, ed è illustrato da Maccox, il cui vero nome è Marco D'Ambrosio. Qui fa da Virgilio allo scrittore Giulio Andreotti, che così si presenta, facendo riferimento naturalmente a Palazzo Chigi. E sette volte dal colle fu insignito del campanel che tace i ministri nel palazzo che al premier fu adibito. E Giulio Andreotti, in veste di Virgilio, appunto, illustra tutte le bassezze della politica italiana in questo rifacimento dantesco. Vi segnalo infine che è stato presentato a Firenze il Passaporto sulle tracce di Dante in Toscana. È un'iniziativa di Palazzo Strozzi volto a far conoscere i luoghi danteschi e che permette poi alle famiglie che faranno tappa in questi luoghi di partecipare gratuitamente alle mostre di Palazzo Strozzi. Prima di passare la linea alle informazioni sul traffico, vi ricordo che il 21 giugno inizia l'estate e si svolge la Grande Notte del Libro. In particolare a Milano ci sarà la Grande Notte Bianca, con 30 tra luoghi vari che rimarranno aperti, nelle quali si organizzeranno manifestazioni con al centro il libro, presentazioni, dibattiti, eccetera. Questa è un'idea che è nata l'anno scorso da un editore milanese, Marco Simarcos, e dal libraio di Piazza Repubblica Libri di Cagliari. Invece a Vicenza si conclude oggi pomeriggio, l'ottava edizione di Libriamo 2013. È una manifestazione che si svolge presso i chiostri di Santa Corona Vicenza, anche qui molti incontri. Oggi pomeriggio avremo quello con Candida Livatino e successivamente con Andrea Kerbacher. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, restiamo in Toscana con i lontani eredi di Dante, cioè i narratori contemporanei, soprattutto quelli della nuova generazione, che troviamo nel libro curato da Raul Bruni, Toscani maledetti. Se cosa difficile essere italiano, difficilissima cosa è l'essere toscano. Lo troviamo nella collana Avanti Veloce di un editore di Prato, Piano B, 180 pagine, 14 euro. 21 racconti, quasi tutti inediti, di altrettanti scrittori, alcuni di questi anche molto noti, la cui scelta vuole offrire uno spaccato della narrativa toscana, per quanto possa avere un senso cercare ancora un'identità di carattere geografico. Nell'introduzione, infatti, Raul Bruni osserva come dall'antico primato la letteratura toscana è precipitata da tempo in una posizione marginale. E aggiunge però che un tratto in comune c'è in questi racconti, esattamente quello di andare oltre il cliché turistico per cogliere, scrive, il cuore pulsante dei luoghi. Si tratta di scritture che raccontano, ognuna a suo modo, il rimosso delle oleografie turistiche, rifiutando nettamente ogni retorica della celebrazione. In questo senso si riallacciano all'archetipo della toscanità. Un'espressione della tradizione narrativa toscana è Bruno Cicognani, un narratore ingiustamente dimenticato, di cui Mauro Pagliai Editore ripropone in due volumi le novelle, quelle composte tra il 1915 e il 29 e quelle tra il 1930 e il 1955, 414 e 372 pagine, 25 e 24 euro per ciascuno dei due volumi, che sono curati da Alessandra Mirra e Valerio Camarotto. Cicognani, vissuto fra il 1879 e il 1971, non fu un bozzettista, ci dicono i due curatori, ma fu animato dalla profonda capacità di scavare nella psiche dei personaggi e di descrivere a fondo ambienti e ceti sociali. Cambiamo latitudine e andiamo al sud con un titolo che è tutto un programma, Piccola guerra lampo per radere al suolo la Sicilia, di un giovane autore di Agrigento che è stato già segnalato in questa rubrica, Giuseppe Rizzo. Il libro è pubblicato da Feltrinelli, 276 pagine, 14 euro. Un gruppo di ragazzi si ritrova nel paese di origine, siciliano, Ortica, un paese che i ragazzi hanno lasciato da tempo per andare a studiare o lavorare fuori dall'Italia o fuori dalla Sicilia comunque. Ritrovatisi, i tre eroi cercheranno di combattere concretamente, e sia pure in modo un po' rocambolesco, i comportamenti mafiosi, mettendo alla berlina il sindaco colluso e il boss intoccabile. Ne scaturisce una serie di avventure, talora esilaranti, tra le quali c'è spazio anche per qualche riflessione non convenzionale sulla Sicilia, come questa che vi propongo. Oh, andiamo sempre a prendervi sul serio. È incredibile quante storie fate su quest'isola. Se uno vi dice che è bella, voi dite che è brutta. Se uno dice che è brutta, voi dite che è bella. Starci una settimana o un mese, come fanno quelli come me, non dà il diritto a esprimere opinioni, secondo voi. Se uno riconosce che ci sono dei problemi, voi dite che chi viene da fuori, per carità, non si deve neanche permettere di venirveli a spiegare, questi problemi. E non sia mai prendervi in giro. Subito gridate al luogo comune, alla superficialità, persino a un certo danno alla vostra immagine. Ma andiamo. Non è che dietro a tutte queste manfrine c'è solo il fatto che siete tremendamente permalosi. Beh, insomma, Balbetto, non è proprio così. Torniamo al nord, in Piemonte, con un giornalista, un grande giornalista del Novecento, Giovanni Ansaldo, di cui Aragno pubblica Stile Piemontese, 112 pagine, 12 euro. Questa è una raccolta di scritti tra il 1925 e il 61 dedicati a due figure mitiche della politica piemontese, cioè Giolitti ed Einaudi. Ansaldo è così presentato nella bella introduzione di Giuseppe Marcenaro: l'inesausto culto per il passato coniugato al presente, l'insaziabile curiosità per le bizzarrie del cuore umano, l'eccitante demone della scrittura lo depistarono dalla quiete domestica. E qui si parla appunto di Giolitti ed Einaudi, e ne abbiamo due ritratti gustosi e attualissimi. A un certo punto, per esempio, Einaudi sembra che parli della televisione di oggi quando commenta con Ansaldo con queste parole: vede, mi disse Einaudi, il mangiare bene piace a tutti e piace anche a me, ha un patto, ed è che non se ne parli molto. In Italia se ne parla troppo. Se lei fa attenzione, per esempio, in treno non si parla d'altro. Conosco parlamentari cosiddetti autorevoli, direttori generali di ministero, alti magistrati, che arrivano a prendere appunti di indirizzi di trattorie dove si preparano piatti particolari. Ciò è grottesco, non credo che accada negli altri paesi. Se vedesse la televisione di oggi, povero Einaudi, chissà cosa direbbe. Ma anche il giudizio politico è assai partecipe. Ansaldo infatti osserva, a proposito di Einaudi, come egli sia un liberista convinto, ma non un liberista per calcolo di tariffe, sebbene perché nel liberismo economico, contrapposto alle dande della protezione statale, gli vede il trionfo della lotta e della competizione. Il suo liberismo ha una intima natura spirituale che ne fa quasi una dottrina morale. E sull'insegnamento di Einaudi, un testo assai gradevole e utile è quello di Mirella Bersani, che si intitola Le regole d'oro del buon governo, dal pensiero di Luigi Einaudi, edizioni Virgilio, 166 pagine, 22 euro. Il contenuto del libro si ispira alla famosa antologia degli scritti di Einaudi, che era stata curata da Ernesto Rossi nel 1955, intitolata appunto Il Buon Governo, che antologizza testi del presidente, dell'economista, del politico, su moltissimi dei temi che gli stettero a cuore. Qui la Bersani riprende quei testi presentandoli in linguaggio chiaro, e questa è un'operazione di divulgazione del grande pensatore, nonché presidente della Repubblica, utile e riuscito, perché ci fa cogliere gli aspetti che oggi appaiono in certi casi rivoluzionari del miglior pensiero liberale. E sempre di Giovanni Ansaldo troviamo il ritratto del predecessore di Einaudi, del Quirinale, cioè il napoletano Enrico De Nicola. Il libro si intitola Don Enrico, è pubblicato dalle Lettere, 108 pagine, 11 euro. Quando morì De Nicola nel 1959, Ansaldo era direttore del quotidiano di Napoli, Il Mattino, e scrisse un commosso articolo sul grande uomo politico, col quale peraltro lo stesso giornalista aveva avuto grandi polemiche, soprattutto molti anni prima, all'avvento del fascismo, quando Ansaldo, scrivendo sulla rivoluzione liberale di Gobetti, aveva criticato proprio il bacio addirittura di De Nicola, che allora era presidente della Camera, concesso a Mussolini al termine di un dibattito parlamentare nel 1923. E anche nell'immediato dopoguerra, quando la stella politica di De Nicola torna a brillare, Ansaldo non è tenero. Nel 48 lo definisce prima un pappamol, poi addirittura un miserabile. Poi dal 50 i rapporti diventano cordiali, anche se Ansaldo non smise mai di provare qualche forma di insofferenza verso De Nicola, di cui è rimasto celebre il cattivo carattere, l'indecisione e il vezzo di minacciare continuamente le dimissioni. Un vezzo che ispirò a Montanelli il celebre epitaffio: qui furono accolte le uniche dimissioni che Enrico De Nicola si rifiutò di dare. E qui abbiamo una raccolta delle pagine del diario con incontri con De Nicola, articoli dello stesso Ansaldo che ci permettono di ricostruire il clima della primissima Repubblica, illustrando un carattere che al di là delle sue impuntature ha anche tratti di grande simpatia, legati soprattutto agli aspetti legati al rigore e alla probità leggendari di De Nicola. De Nicola infatti era rigorosissimo, scrive Ansaldo, in fatto di disciplina, esigentissimo in fatto di spese, meticolosissimo circa le motivazioni delle sentenze quando fu presidente della Corte Costituzionale, respingeva senza remissione, conforme al modulo di tutta la sua vita modesta e limpidissima, diversi conti di rimborso. Insomma, De Nicola ha un cattivo carattere e questo cattivo carattere, scrive Ansaldo, evidentemente contrasta con l'altro stile di vita, con lo stile di vita e dei tempi e della Roma d'oggi, con lo stile di vita secondo cui troppe volte gli uffici più alti dello Stato sono considerati sinecure. Insomma, anche i grillini non hanno scoperto nulla. E a questo punto... Il confettino. Salutiamo una nuova collana di libri per ragazzi che è pubblicata dall'editore Lindau. Il volume che esce è di Paolo Ligabue, Beniamino e l'orologio magico, con le illustrazioni di Matteo Pagani, 12 euro. Anche il ritorno da scuola può diventare un tragitto mirabolante se si trova appunto un oggetto misterioso come un orologio magico. E con questo ringrazio Luca Cremonese e Valentina Magri in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.